Respiro. Buongiorno, benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli, in questa puntata parliamo di polveri sottili e vi porto subito in Sicilia dove un gruppo di vigili urbani ma anche tre avvocati in veste di cittadini hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo contro il sindaco di Palermo e due ex assessori della sua giunta responsabili del traffico e dell'ambiente. I tre imputati sono accusati di non aver adottato i provvedimenti necessari a snellire il traffico e a contenere i livelli di polveri sottili nell'aria. Il dato è disarmante, ma è incoraggiante il fatto che quanto accaduto a Palermo era già avvenuto a Firenze e sembra stia per accadere a Napoli e Milano. Dunque, se Maometto non va alla montagna, sono i cittadini a tirare per la giacca gli amministratori locali e per fortuna non sono soli. Ci sono anche istituzioni come la Commissione Europea che in tema di polveri sottili è riuscita a varare un documento che forse per la prima volta ha glissato e superato le pressioni delle lobby europee e anche quelle del Parlamento europeo. Le particelle inquinanti trasportate dall'aria, le cosiddette PM10, sono emesse dagli impianti industriali, dal traffico, dal riscaldamento domestico e possono provocare asma, problemi cardiovascolari, cancro al polmone e morte prematura. Attualmente il superamento dei valori limite in vigore in Europa toccano 83 milioni di persone. Superano i limiti l'Italia, la Germania, il Regno Unito, la Svezia, la Polonia, il Portogallo, la Spagna, la Slovenia, l'Estonia e Cipro. Per questa ragione l'Italia ha ricevuto una lettera di diffida per non aver ancora rispettato i limiti in vigore dal 2005 sulla presenza di particelle sottili nell'aria responsabili dello smog. Si tratta del secondo ammonimento dopo il quale c'è soltanto il deferimento alla Corte UE sulle autorizzazioni per controllare le emissioni degli impianti industriali. La Commissione ha deciso di intervenire anche su 10 Stati membri, tra cui l'Italia, che non hanno rilasciato o rinnovato le autorizzazioni agli impianti industriali. Complessivamente 4.000 siti nell'UE. Per questo una prima lettera di diffida è stata inviata a Danimarca e Irlanda, non a Malta, come inizialmente indicato dalla Commissione europea, mentre Italia, Belgio, Bulgaria, Grecia, Olanda, Portogallo, Slovenia e Spagna hanno ricevuto un secondo ed ultimo richiamo ufficiale. E dunque, anche se l'Italia in tutti questi anni, nonostante l'allerta lanciato dai medici, dall'OMS e altre importanti istituzioni, non sembra essere andata di corsa per risolvere il problema smog, ora dovrà cominciare a muoversi perché dietro l'angolo ci sono multe salatissime per chi supera i livelli di PM10 nell'aria. La Commissione europea ha infatti approvato una serie di provvedimenti proprio in merito alle polveri sottili e Susanna Lindvall è la responsabile per le PM10 all'interno dello staff che lavora con il commissario europeo all'ambiente Stavros Dimas. C'è una direttiva che racchiude tutte quelle sin qui prese in merito alla qualità dell'aria, direttive che hanno puntato molto l'attenzione sui limiti possibili per le emissioni di PM10 nell'aria. Come primo parametro per questo genere di lavoro siamo partiti dal considerare le polveri sottili come sostanze altamente nocive. Alto rischio per la salute è il termine appropriato quando parliamo di PM10. Un impatto sulla salute delle persone che avrà, ma sta già avendo, implicazioni sui singoli ministeri della salute di ogni Stato che fa parte dell'Unione. Quindi anche un peso economico importante da sostenere. Le PM10 provocano, tra le altre cose, il cancro ai polmoni e dunque è inutile ribadire che sono un grave pericolo per la popolazione. Detto questo, abbiamo deciso all'interno della Commissione europea di stabilire dei limiti sulla presenza di polveri sottili nell'aria e per definire questi limiti ci siamo basati sui lavori presentati fino ad ora dall'OMS. E nonostante le forti pressioni dei singoli stati, queste decisioni saranno estese a tutti. Qual è la situazione italiana in merito alle PM10? Il limite italiano è superato abbondantemente, ma come l'Italia, quasi tutti i paesi europei non stanno lavorando seriamente su questo fronte. Pensi che per ora sono soltanto due gli stati in cui le regole vengono rispettate. Voi in Commissione vi siete battuti per non abbassare gli standard previsti quando si parla di PM10. Ho letto che il vostro timore era legato a possibili ritardi nell'attuazione dei provvedimenti e a un abbassamento del livello di controllo della salute pubblica. Quali sono allora gli standard standard che avete approvato? Ci sono due limiti che abbiamo valutato per le PM10 e sono che non venga superata la concentrazione di 50 microgrammi misurati sulle 24 ore per un periodo continuato di 35 giorni all'anno e l'altro parametro che non debba essere superato il limite dei 40 microgrammi in generale durante l'intero anno. Adesso, dunque, chi non risponderà a questi parametri pagherà delle multe salate, ma quanto tempo avranno i singoli stati per adeguarsi? La nuova direttiva entrerà in vigore tra due anni, e cioè nel giugno del 2010, ma molte di queste direttive sono state già diramate e i singoli stati avrebbero dovuto già muoversi su questo fronte. C'è da aggiungere che i tecnici in commissione hanno capito una cosa semplice ma efficace, cioè che il problema delle emissioni si affronta meglio a partire dalla fonte, per esempio attraverso norme più rigorose sulle emissioni dei veicoli, come le recenti Euro 5 e Euro 6 per i veicoli passeggeri. Parlavamo prima anche dell'OMS, l'OMS ha infatti diffuso un rapporto nel quale si aggiunge, tra le altre cose che sono state dette nel corso di questi anni, che oltre il 30% delle morti che si registrano tra i giovani e i giovanissimi europei, quindi tra gli 0 e i 19 anni, sono dovute a inquinamento ambientale. 20 anni fa a Napoli, sulla spinta di un'esigenza che purtroppo è rimasta ancora viva, nascevano le mamme antismog, un movimento di cittadini che ha cambiato, certo non ha rivoluzionato, ma ha cambiato il modo di fare politica locale e anche il modo di essere cittadini. E allora sentiamo Titti Tidone delle mamme antismog di Napoli. Quello che abbiamo combinato in passato, che cerchiamo ancora di combinare, anche se i tempi sono diversi, quindi il tipo anche della, chiamiamola, della lotta, tra virgolette, deve ovviamente anche cambiare, è quello di aver intanto aver creato un movimento d'opinione dal basso, cioè da parte dei cittadini, quindi al di là delle note associazioni grosse a livello nazionale, no? Quindi solamente dei cittadini che dal basso si muovevano per portare avanti le istanze della collettività e per denunciare quanto grave fosse la situazione in termini di traffico di inquinamento. E addirittura noi, per esempio, per portare avanti questa battaglia abbiamo fatto con l'Istituto Tumori di Genova, il Dipartimento di Chimica Ambientale, delle analisi sulle concentrazioni del benzene sul nostro territorio cittadino e abbiamo dato questi dati che sono stati rilevati con delle laboratori previsti anche dal Ministero dell'Ambiente, abbiamo dato i risultati delle analisi in conferenza stampa. Quindi noi avevamo delle analisi, dei risultati che non aveva nemmeno il Comune, venendo meno all'allora del decreto Cronchi. Quindi abbiamo cercato non solo di alzare, diciamo, la voce e portare avanti le nostre istanze, però ci siamo a un certo punto anche messi al posto dell'istituzione dando delle informazioni alla collettività. Quindi è questo tipo di operazione che noi abbiamo cercato di fare, che secondo me è stata anche vincente, nel senso che poi tutti quanti hanno capito che la situazione era veramente grave e che anche dei cittadini potevano portare avanti delle battaglie in maniera, diciamo, anche autorevole. Le cose piano piano si stanno facendo, ma è chiaro che non siamo ancora neanche a un livello di sufficienza. A Napoli, per esempio, hanno costruito questa grande metropolitana nuova. Napoli è una città super servita, però purtroppo se le amministrazioni non pigliano delle iniziative veramente per dare un giro di vite alla situazione e portare la gente, quasi obbligarla a entrare nei centri storici a piedi, chiaramente le persone di loro iniziativa non lo fanno. Il tema è vasto, ovviamente non si conclude qui, nelle prossime trasmissioni torneremo ad ospitare persone e idee su questo argomento. Respiro. Seconda parte di Respiro, benvenuti, io sono Cristina Carpinelli. Dicevamo, da una specie di tetrapack con una proteina del mais al posto dell'alluminio, al vassoio in polpa di legno, passando per il vuoto a rendere di vetro e la cellulosa. Questi sono solo alcuni esempi dei materiali della galleria Eco Packaging del TIS Innovation Park. Ci hanno lavorato due donne, una di queste si chiama Bettina Schmidt e noi l'abbiamo raggiunta e intervistata. Generalmente per eco packaging si intende un materiale di imballaggio dove si cerca di avere, diciamo, un impatto ambientale ridotto in confronto ai materiali convenzionali. Noi qui al TIS, per la nostra galleria dell'eco packaging, ci siamo concentrati su materiali che corrispondono ad uno dei seguenti quattro criteri, cioè o il materiale che si usa per il packaging è biodegradabile, poi spiegherò cosa vuol dire, o deriva da fonti rinnovabili, il packaging è riciclabile, oppure la quantità di materiale usato deve essere la minore possibile. Per esempio, se parliamo di materiale biodegradabile, vuol dire che il materiale si deve degradare nel corso del processo di compostaggio. Per esempio, ci sono sul mercato film fatti di cellulose, oppure ci sono già nuove bioplastiche a base di amido, di mais, di patate, che sono compostabili. Il materiale da fonti rinnovabili e non da fonti di petrolio, anche quelli sono le nuove bioplastiche che si possono già fare da legno, mais o patate. Per esempio esistono già bottiglie o coppette per lo yogurt che sono fatti non da fonti di petrolio, però da fonti rinnovabili. Il materiale riciclabile conosciamo già se è fatto di vetro e carta, però pensando alla plastica, con una raccolta differenziata delle diverse plastiche, anche quella potrebbe essere riciclata molto meglio. Diciamo, ci sono possibilità durante la produzione di ridurre la quantità dell'energia anche il 20-30%, però secondo noi si deve anche considerare la quantità di acqua usata durante la produzione e soprattutto l'emissione di CO2. E noi anche nel nostro lavoro abbiamo lavorato con la MATEC, che è un istituto rinomato italiano che si occupa proprio della ricerca su materiali nuovi, che è una software che è in grado di valutare l'ecocompatibilità di ogni materiale. Cioè, se qualcuno si decide di usare un imballaggio ecologico, attraverso questa software può già vedere quale materiale adatto al suo alimento è quello con la migliore ecocompatibilità. Senta, quanto tempo avete lavorato per arrivare a questo genere di soluzioni? Allora, la ricerca che abbiamo fatto qui al TIS, soprattutto con la mia collega Anna Pichla, è durata qualche mese, perché prima dovevamo capire quali materiali, dal nostro punto di vista, ecocompatibili si trovano sul mercato e soprattutto vengono già utilizzati come imballaggi alimentari. Poi li abbiamo tutte contattate, le aziende che ci hanno spedito dei campioni, o da tante siamo andate noi stesse per capire meglio, diciamo, la via di produzione e tutto l'argomento dell'eco packaging. E così al momento abbiamo esposte 30 soluzioni di imballaggi per, diciamo, diversi settori alimentari, per i latticini, la frutta, la verdura, i prodotti dolciari e per il settore del catering. E lo scopo di questa galleria è di dare, diciamo, alle aziende un'idea di quello che è sul mercato e di farle vedere la direzione nella quale si sta sviluppando. Secondo lei, voi magari ve lo siete anche fatte questo ragionamento, quanto tempo ci vorrà per vedere alluminio, plastica sostituiti almeno in parte da questi nuovi imballaggi? Beh, diciamo, siamo sicure che in futuro sarà possibile sostituire questi materiali in gran parte e usare sempre di più quelli di minore impatto ambientale. Però, diciamo, alcuni materiali hanno delle caratteristiche così importanti, soprattutto nel packaging dell'alimento, che al momento le alternative sono ancora di fase di sperimentazione. Però, secondo noi, soprattutto per le plastiche, siamo sicure che un aumento del prezzo del petrolio come conseguenza del suo esaurimento ci obbliga a cercare nuove soluzioni, e così, diciamo, anche se durerà ancora degli anni, si abbasserà il prezzo e ci saranno anche sempre di più nuove soluzioni anche ecocompatibili, soprattutto perché secondo noi anche per le aziende che producono sia questi imballaggi sia gli alimenti, sempre di più anche nel marketing vogliono far vedere, diciamo, le loro attività nella tutela dell'ambiente, e questo di sicuro fa parte del loro futuro marketing. Dice che sta cominciando a funzionare anche l'eco-marketing, cioè la gente chiede e le aziende sono in qualche modo costrette a rispondere a questo bisogno. E diciamo soprattutto nel settore del biologico, ci sono già dei paesi come l'Inghilterra dove è obbligatorio che la frutta confezionata deve avere un confezionamento, un imballaggio biodegradabile. Cioè proprio in questo settore dove già il contenuto, diciamo la verdura biologica, la carne biologica sono già così, diciamo, è sensibile all'ambiente, anche il packaging fa una gran parte, e lì il cliente di sicuro è molto più critico. In chiusura di questa puntata vi informiamo di un'iniziativa lanciata da MediaMarket, si chiama Uso e Consumo, è un software che dirà ai clienti al momento dell'acquisto di un elettrodomestico bianco quale sarà il costo effettivo di utilizzo del prodotto in un anno, e sarà in grado di misurare l'impatto ambientale dello stesso elettrodomestico. Pierluigi Bernasconi è uno dei manager che ha promosso e sostenuto questo strumento. Insieme all'Università, alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Brescia, abbiamo sviluppato un programma che consente, sulla base dei parametri dichiarati dai costruttori e sulla base dei parametri dei consumi medi di detersivi, di acqua, di elettricità, di stabilire quant'è non solo il costo per ogni singolo bucato nel caso delle lavatrici, oppure di mantenimento annuale del frigorifero, ma anche quello di fare un vero e proprio piano di ammortamento per stabilire poi qual è il prodotto migliore e più adeguato alle esigenze di ogni singolo consumatore. Ecco, voi questa cosa come fate a proporla a un potenziale cliente? Cioè diventa un elemento in più, o quando una persona ha deciso cosa prendere gli dite guarda che questo qua consuma X mentre quell'altro consuma Y? No, in realtà ci sono due livelli, diciamo, di possibile interazione. Uno è quello che abbiamo deciso di inserire sui cartellini vendita, quindi fondamentalmente sul materiale che si trova in punto vendita a fianco del prodotto con le caratteristiche principali e il prezzo, un parametro che è quello che dà, nel caso delle lavatrici per esempio, il costo medio per bucato. Naturalmente poi c'è la possibilità, attraverso un programma personalizzabile, di inserire ulteriori parametri, però questo può essere fatto con l'addetto vendita, di modo che ogni cliente, in base alle proprie esigenze, in base anche al costo per esempio del prodotto che ha scelto, può fare non solo il costo unitario per lavaggio, ma il vero e proprio conto economico del proprio elettrodomestico su base annua, perché naturalmente una delle componenti importanti è per esempio la lunghezza di vita del prodotto. Io faccio un investimento di alcune centinaia di euro che mi aspetto, su un prodotto che mi aspetto duri 5 anni, 10 anni, 15 anni, e quello dipenderà un pochino dalle aspettative del cliente e dalla tipologia di prodotto. Secondo lei, questa è l'altra domanda che esula un po' dal progetto che voi presentate ovviamente, ma secondo me lei un'idea se l'è fatta, può essere questo strumento uno strumento che invogli anche le aziende produttrici a migliorare l'efficienza degli elettrodomestici? Beh, certamente le aziende produttrici dovranno in qualche modo tener conto di questi parametri, perché fino ad oggi nel settore degli elettrodomestici sono state inserite le classi di consumo, che sono un parametro, come dire, standardizzato. Molti produttori in realtà stanno proponendo prodotti che superano in positivo questi standard, e quindi, come dire, introducono degli elementi che non sono contenuti negli elementi economici, che non sono contenuti in queste tabelle obbligatorie. E io credo che molte industrie faranno, come dire, le loro riflessioni per rendere ancora più competitivi i loro prodotti a tutto beneficio del mercato e dei consumatori nello specifico. È tutto. Respiro torna la prossima settimana, sempre alle 16.30 il sabato e alle 14 domenica. Ci trovate anche sul sito di Radio 24. Se volete potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.